allora 22.05 onda rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Dal 1977 nell'etere, praticamente fra qualche giorno la radio farà 36 anni a disturbare i potenti. Esattamente il 24 maggio, e il 24 maggio al Volturno occupato festeggeremo la radio e l'anno in cui è nata, ha cominciato la sua storia, cioè il 1977. Andremo un po' a ripercorrere le tappe di quell'anno magnifico, un anno di rivolta, noi ce lo ricordiamo, ma eravamo infanti e in quell'epoca ce ne andavamo con i nostri genitori a vivere la vita di strada che si faceva in quegli anni. E giustamente prima fuori onda notavamo che noi salutiamo sempre tutto il popolo incarcerato solamente alla fine della trasmissione, invece è anche giusto che lo facciamo all'inizio, durante, sempre. Che salutiamo però più di tutto, tutte e tutti e tutte e tre non ci possono ascoltare, e stiamo parlando di Marina, di Alberto e di Lander. Lander è stradato qualche tempo fa. Marina Cugnaschi, che è incarcerata presso la seconda casa di reclusione di Milano a Bollate, via Cristina Belgioioso 120-20-157 Milano, per chi le voglia scrivere, voglia mandare cartoline, lettere e mettersi in contatto con lei. Alberto, il nostro fagiolino, Alberto Funaro, presso la casa circondariale Capanne, via Pieve Aiola 252-006-06132 Perugia. Invece per Lander, che è recluso in quel di Spagna, non abbiamo al momento a disposizione l'indirizzo, magari se lo troviamo lo diremo più tardi, ecco. Allora, dicevamo 25 o'clock questo mercoledì. Oltre il fantasma all'opera, ci abbiamo pure un altro ospite. Che comunque è familiare della radio, o almeno magari della radio di un tempo. Come più tardi lui stesso ci racconterà. Noi vi ricordiamo il numero del conto corrente postale 6180 4001, da intestare al laboratorio Cooperativa 2001, via dei Volsci 560085, Roma. San Lollo. 06491750 nel nostro recapito telefonico. E noi iniziamo così. Your body, every time you breathe in, every time you eat something that's wrapped in plastic, every time you drink something out of the tap that's not been like sterilized in front. Sterilized. Okay, yeah, sterilized, that'll do. Like sterilized twice, sterilized. Whatever, it's gonna fill me up. Comunque noi ringraziamo chi ci chiama da Verona. Vabbè dai, vogliamo salutare il nostro ospite, Fantà. Eh sì, stasera ci è venuto a trovare il Massimetto. Ciao, ciao a tutti e tutte. Poi dobbiamo parlare sul microfono, però adesso te ne do uno, dai. Noi abbiamo iniziato con Citizen Fish. E continuiamo sullo stesso tema. E i più attenti riconosceranno che da Citizen Fish ai Subhumans c'è solo la differenza di un batterista e quindi Subhumans. Screaming. E allora parliamo questa sera con Massimetto di un qualcosa che è successo a Roma già da un'annetta a questa parte, no? Se non sbaglio, o di meno? Lo spazio? Sì. Lo spazio di Libertà 3? No, da quest'anno proprio, iniziato qua nel 2013, abbiamo fatto la prima iniziativa. Ok, perfetto. E vabbè, parlaci un po' insomma di questo posto, di dove sta, di come è collocato, di come funziona. Ah, ok. E guarda, tutto è un palazzo occupato, questo è degli quindi, uffici. Certo, così, te vieni a nome dell'occupazione. Vabbè, sì, pure così. E questo era un palazzo occupato già da 5 anni, avevamo uno spazio gessotto per fare delle riunioni e a un certo punto abbiamo creato un collettivo e organizziamo iniziative, concerti nell'ambito punk, grass, grindcore e non solo. Va meglio? Sì, meglio, no, c'era la musica che copriva. Ah. Abbiamo interrotto lui però proprio nel momento della concentrazione. Allora, dicevamo. Che è appunto questo palazzo, dove si trova esattamente? Roma 70. Roma 70. Zona Eur. Ok. Sì. Che è quel praticamente al scendendo dalla Colombo, così tanto pure per capire io. Scendendo dalla Colombo, via Erminio Spalla. Diciamo rispetto alla Colombo devi andare sulla parte a sinistra dei. Sì, sì, vicino ai granai. Vicino. Vabbè, insomma, sì. Vicino a quei postacci, sì. Sì, a quel postaccio. Sì. A quel postaccio c'è Roma 70, questo quartiere, e ci ho lavorato, non è che. E c'è questo ex ufficio, probabilmente dovuto a che appunto con la crisi, con tutto quello che succede, anche questi luoghi, questi spazi fisici vengono praticamente chiusi, vengono abbandonati e ce li riapriamo. Vanno riempiti invece. Sì, sì, 5 anni fa abbiamo iniziato. Siamo entrati, capito? Siamo più di 100 nuclei, ci stanno famiglie con bambini, cioè, e viviamo, cioè, tutti insieme con un'autogestione proprio del posto. Ovviamente manco si fa distinzione, ma comunque diciamo nuclei familiari ovviamente che vengono da un po' tutte le parti del pianeta. Sì, sì, è infatti un palazzo multietnico e questa cosa è molto bella, cioè, perché ci stanno delle differenze a livello proprio culturale, pure religiose, ti trovi pure e cercate di convivere tutti insieme, cioè non è così semplice, poi in un'autogestione è ancora più complicato, però è soddisfacente quando le cose vanno e possiamo dire che sta andando non è così molto facile bene. Ma è bello, sì, soprattutto sì, sì. Ok, e quindi in questo crogiuolo, diciamo, di condivisione. Di condivisione, di personalità differenti, invece da un po' di tempo si decide di aprire uno spazio anche con l'obiettivo specifico di magari un gruppo. Sì, siamo un collettivo, anzi approfitto per salutarli tutti, ciao Graziella, Mariuccio, Marilena, Antonio. E organizziamo iniziative, siamo aperti pure per fare delle cose nel quartiere, anche se ancora adesso non ci abbiamo un grosso riscontro, sono più i compagni da fuori che vengono alle iniziative. Stiamo provando pure con le partite, tante volte uno dice il calcio aggrega di più, così piano piano si sta cominciando a muoversi qualcosa. Invece dal punto di vista, sai, quando uno occupa uno spazio, ormai sono tantissimi, no, gli spazi a Roma occupati e diventano sempre di più per motivi appunto soprattutto abitativi, data la ormai insomma come si dice endemica impossibilità a reperire sul tra virgolette mercato un posto dove vivere, diventa ormai un'esigenza primaria quella dell'occupazione. Voi mi avete detto appunto che già sono 5 anni, in realtà è un'occupazione consolidata, come dire. Sì. È stata sempre facile la cosa, cioè questo essere consolidati ha richiesto comunque un periodo pure di repressione, di resistenza, eccetera, sì, oppure sì. Siete stati fortunatissimi? No, fortunatissimi no, non siamo stati, già siamo lottata, diciamola tutta. Soprattutto all'inizio, cioè, sai, con la paura proprio dello sgombro, perciò te lo difendi picchiettandolo giorno e notte, capito? Abbiamo fatto questo per diverso tempo. Per lo più il proprietario dello stabile ci aveva fatto una diffida per la corrente, non ci abbastava, cioè, non c'avevamo corrente, stavamo con gruppo elettrogeno. Te immagini tipo 200-300 persone abitare, capito, su un palazzo con un gruppo elettrogeno. Mi accenne lampadine a turno, diciamo. Sì, sì. C'era un periodo che andava e veniva la corrente quando rovinavo i filtri, quella da stare sotto un sommergibile, capito? Era invivibile. Però abbiamo resistito, poi abbiamo fatto diverse lotte, abbiamo fatto, tra cui abbiamo occupato diverse volte la CEA, così fino a quando siamo usciti. Hanno fatto l'allaccio, insomma. Sì. E adesso stare senza problemi, e quindi si può fare pure un posto dove si suona, perché sì, penso, immagino, sì, almeno, se no. Almeno non salta l'ampli, ragazzi, sì. Invece dal punto di vista, appunto, dicevi, i compagni che vi vengono a trovare, compagni e compagne, dal punto di vista invece del rapporto con le altre occupazioni, come va? Va bene, insomma, ci stanno delle relazioni coordinate? Sì, anzi, è molto vasta la cosa, perché noi veniamo da un'occupazione del BPM, veniamo, perciò abbiamo, naturalmente, se facciamo parte di quella ragnatela del BPM, però non solo, ci stanno pure nell'ambito pure anarco, cioè sempre tra di noi abbiamo un'altra cadena di persone, sì, dei posti occupati che collaboriamo sia per iniziative, sì. Quindi, insomma, un po' a 360 gradi, se sì, cerca chi lotta, insomma, sì, in sì, giro, sì, e chi sì, si sì, vuole pure divertire magari, sì, per sì, farlo. Ok. E noi prima abbiamo avuto qui pure di passaggio uno svedese, però non gliel'abbiamo mandata mentre c'era. Adesso mandiamo un po' di Svezia. Dicevamo, da queste parti molte volte la Svezia è ricorrente. Refused. Summer Holiday Against Punk Routine Refused, che sarebbe poi la faccia dura degli International Noise Conspiracy. We'll be right back. invece noi non andiamo così lontani, restiamo qui a Roma, perché proprio in questo spazio, che andremo a dire poi come l'avete chiamato, se l'avevi già detto forse, però lo sì, spiegheremo magari perché, e appunto andremo invece a sentire e a vedere delle band che vengono un po' più vicino che la Svezia, insomma. Allora dici, insomma, come nasce il nome, perché si chiama così? Vabbè, il nome l'abbiamo preso in maniera molto minimale, vabbè, Spazio 53 l'abbiamo preso tramite la via che finiva con 53 e tra, in una maniera proprio semplice, così genuina. E adesso con venerdì abbiamo questa iniziativa con quattro gruppi, tra cui due che vengono da Cagliari e due romani. E mo vi faccio sentire questo materiale che ho portato di loro, cioè... Vabbè, anche perché appunto, lì li sentiremo dal vivo qua col disco e spegniamo insomma l'iniziativa, e quindi vediamo se ho preparato tutto. Non ancora, perché abbiamo detto mandavamo un gruppo che invece da queste parti ogni tanto mandiamo, soprattutto poi quando vengono la gente di Guidonia e di quelle parti, che appunto sono poi contigui ai War Peace, e quindi proprio dei War Peace andiamo, stiamo parlando, e Massimetto ci ha selezionato la prima traccia del disco che si chiama Nucleare. Poi dopo devi fare te, insomma. Va bene, ok. Vai. Circlepit, New York style, okay? Skull! Brian! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! Riot! E allora ci siamo subito introdotti, niente? Allora, quindi nasce questa iniziativa così, ma come nasce? Cioè, a un certo punto dici, ci abbiamo tecnicamente la possibilità di farlo, abbiamo voglia di farlo, ci abbiamo il, non so, un, come si dice, un motivo per farlo, nel senso che... Assolutamente, abbiamo mille motivi per farle certe iniziative, in realtà già siamo diversi che veniamo pure da gruppi che suoniamo, perciò sappiamo cosa vuol dire andare a suonare fuori, organizzare concerti, ma proprio ci piace proprio lo spirito di aprire una cosa underground dentro una zona dove non c'è niente e proporre delle iniziative. Siamo tutti appassionati un po' della musica estrema, capito, con tematiche che riguardano le cose musiche estreme, e organizziamo così iniziative. Il fantasma peraltro è un affezionato in realtà dello spazio 53 e mi sembra, sì, vai. No, mi sembra già in passato, insomma, me ne parlasti. Oh, c'è un posto figo, lo sai, da un po' di tempo io lo frequento. Ma diciamo che appena sono entrato nello spazio 53, non so, era un ambiente accogliente. Ma perché sono tutti come Massimetto, così, paciosi, tranquilli. Sì, a parte tranquilli, comunque dove può ascoltare, cioè, un certo genere di musica che non ovunque negli spazi occupati può ascoltare. Attenzione, non ovunque, non ovunque, pure negli spazi occupati. Anche, certo. Stiamo parlando del grind, dell'hardcore spinto, insomma, di queste robe qua. Crust. Sì. Ok, e roba stuzza, roba, sì, roba molto sporca. Che quindi, che il secondo, allora poi magari parliamo proprio come sono stati, no, lo diciamo dopo. Sì, sì, andiamo prima. Ok, sentiamo questo gruppo che è di Roma, devo dire, oltre che sono degli amiconi, cioè persone splendide, è veramente un bel gruppo. Nella scena crust, stage core, così. Ci partecipa e ci suona uno che era ex batterista di DPG, capito? Perciò già un fratello in per sé. Per lo più ci sta pure il bassista Cetro, che è uno che si è dato a fare nello spazio 53, ci fa il fonico, collabora con noi, così. E guarda, li voglio mettere perché sono veramente un bel gruppo, sono. Metto sto pezzo e si chiama Verso il Nulla Creatore. Che sarebbe la seconda traccia, no? Yes. Se non sbaglio. Vai. E allora l'hanno richiesto, eh. Qui trilla la roba. Vai, vai. Se devi mandare a capo. Okay. Lo ridiciamo il titolo, tutto quanto? Chi sono? Sì. Sono, va bene. Ma questi sono loro, Verso secondo me. Il creatore. Vai. Dai. Ok. Neil Doom. Ok, da capo. E quindi stasera 25 o'clock incontra lo spazio 53 e le sue iniziative, le sue produzioni, autoproduzioni. Dunque, sempre così, per un aspetto così logistico, spazio, appunto, che mi dicevi, un'ex mensa dove sì, si è ricavato, insomma, immagino il palco. Sì. Eccetera, funziona bene? Sì, c'è cioè sia l'area del concerto che lo spazio bideria. Ah, perfetto, era quello che si voleva dire. Sì. Quindi, volendo, insomma, c'è pure l'angoletto per andare a bere, rilassarsi sì, un attimo. Sì, assolutamente. E dall'altra parte invece un palco. E amplificazione di volta in volta, ve la state autocostruendo, state mettendo un po' i pezzi? Ancora adesso la stiamo sempre prendendo, sempre da me, sempre con aiuto e collaborazione di altri squat a Roma, okay, che ce l'ha. Scambiate, insomma, sì, un po' sì, quello che manca. Sì. Che cosa devo fare? Abbassare, perfetto, vai. Ok. E quindi funziona appunto con questo criterio di circolazione pure dei mezzi tecnici, ecco. Sì. Ma pensate poi un giorno di cominciare a mettere da parte pure qualche cosa? Sì, l'idea ci sta, solamente che è una questione un attimo di soldi pure, perché avremo uno spazio e avere di. Vogliamo fare cose in maniera molto sociale, con dei prezzi molto bassi, che certo, per tutti ne possono usufruire. E riuscire a metterli da parte, capito, pure qualche soldo per comprare un po' le cose diventa un po' più difficile. Prima di tutto paghiamo sempre i gruppi che vengono, mm-hmm, gli diamo il loro rimborso e cerchiamo di adattarli il meglio possibile, certo, capito, come è giusto che sia. E poi piano piano farci una cassa, cioè, per cercare di avere un servizio nostro. Ok, quindi vabbè, insomma, ci si lavora. Comunque sì, non sì, è tanto, hai detto che avete iniziato, no, con la parte abbiamo iniziato concerti, da febbraio. Da adesso proprio. Sì, insomma, sì, da febbraio abbiamo. Sì, quindi sì, c'è da ragionare molto, oh, e da vedere molto. Comunque almeno un'iniziativa al mese, un concerto come minimo lo facciamo. Fino adesso come sono andate le cose? Sono andate molto bene. La prima volta c'è stato proprio il pienone, la gente era curiosa, voleva vedere il posto, l'abbiamo spinto già due mesi prima con i flyer, locandine, così, mm-hmm, è andata bene, molto molto bene, anzi oltre le nostre aspettative. Pure le altre volte sono andate bene, però già cominciava, capito, a venire un po' la curiosità, diciamo, sì, cominciava a mancare, ecco. Però sta andando, poi abbiamo un programma fino a luglio, abbiamo di iniziativa almeno un concerto al mese lo facciamo. E abbiamo, anzi speriamo a settembre già vorremmo prendere con a due giorni, la cosa aumentarla sempre di più, cioè. E comunque lavorando pure, a quanto ho capito, con 4-5 band, gruppi che vengono a suonare, insomma, vuol dire che comunque pure in 6 mesi hai comunque raggiunto un bel risultato, comunque hai portato sì, a suonare sì, insomma, sì, qualche decina di gruppi. Oh, già adesso che ci stiamo cominciando già a spostare, che cominciano a venire i gruppi italiani, ecco, da Cagliari vengono questi due gruppi, a giugno ci avremo due gruppi della Repubblica Ceca, Grind, cioè, così, a luglio verrà un gruppo dalla Russia, Trash, cioè ci stiamo un attimo piano piano allargando e prendendo più contatti con collaborazioni dei gruppi che portano o turnisti. Gira la voce, sì, sì. Si instaura, insomma, quel meccanismo neurale di rete, per cui poi sì, le informazioni, no, però girano. Già ci stiamo dentro su una rete di organizzatori che organizzano tour in mm-hmm, Italia, dei gruppi che vengono da altre parti, così. E già noi il contatto per Roma lo fissiamo, che ci abbiamo, diamo disponibilità, certo, per piazzare un gruppo. Benissimo, allora poi ci andiamo a sentire, adesso abbiamo già pronta la prima traccia, il okay, prossimo disco del prossimo gruppo che verrà, che si chiama? Aspettando la fine, pure questi uh-huh, sono Crust, vengono da Cagliari. Da Cagliari. E il primo pezzo è L'insegna al capolinea. We'll be right back. prendi solo per te. Così, parlando di Cagliari, ci è venuto in mente il disagio, ci è venuto in mente Andrea, insomma alla fine abbiamo trovato pure ancora una volta, abbiamo trovato che appunto il mondo non è così grande, poi soprattutto quando vai appunto come dicevi te su qua, su a quei generi estremi, poi la popolazione diciamo un po' scremata, ecco. Sì, sì. E quindi mi dicevi pure una scena appunto interessante in quel di Cagliari, creata da Andrea, con questo gruppo che verrà venerdì sera proprio da Cagliari, e poi ce n'è anche un altro, no? Si chiamano Speranza Morta, mm-hmm. Sono di Cagliari e sono veramente in gamba, sono un bel gruppo. Sempre del giro di Andrea? Ormai è diventato un veterano, è diventato, cioè, Andrea. Ormai non, no? Puoi che non passare per. Però non, sì, sta più a Cagliari. No, sta a Birmingham. Sta. Benissimo. Qui invece che traccia mettiamo? Un attimo. La 1. No, no, ma si può fare tutto, tanto facciamo tutto in diretta, no? Vero, fantastico. Vogliamo ricordare che state, che cosa stanno ascoltando gli ascoltatori, oltre che il disagio e la loro Cops. Siete capitati sugli 87. Capitati male, sfortunati stasera. Vabbè, vedocca. 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale, Radio Onda Rossa, questo è 25 o'clock. Ricordiamo il numero di telefono, quello storico del 77, 06491750. Ricordiamo pure un paio di mail, quelle nostre, insomma, vai. 25 il numero, 25 o'clock, @ondarossa.info. E l'altra? E l'altra, fantasma, @ondarossa.info. Quindi, ampia possibilità di scelta, se volete sottoporci al solito quelle che sono le vostre... Il vostro disagio. Il vostro disagio. Non avete che di mandarci mail. Se invece volete mandare delle cose molto più serie alla redazione della radio, Ondarossa, @ondarossa.info è il la casella elettronica della redazione. Invece una cosa che non accendiamo da un sacco di tempo, che dobbiamo fare invece, è l'SMS. Insomma, si parla tanto di comunicazioni, delle reti, la gente che se parla. Noi al solito abbiamo pure dei mezzi, ma manco li usiamo. Anche se rilanciamo l'SMS. Rilanciamo l'SMS, è un mezzo arcaico, poi insomma, ha fatto il suo tempo, molte radio ce l'hanno da secoli, noi da pochi mesi. Ma noi in realtà poi degli andamenti bizzarri del progresso non ce ne curiamo molto, seguiamo la nostra strada. Quindi 342-357-4357 per mandare i vostri SMS. Quindi, siccome abbiamo praticamente interrotto quello che dovevamo dire, rifacciamo la presentazione, perché ormai la facciamo bella figa. Dai. Questo è sempre il gruppo di Cagliari, si chiamano Speranza Morta, e gli mettiamo questo pezzo di Uomini Senza Senso. Bene, Uomini Senza Senso, vai. allora ritorniamo in diretta a Radio Onda Rossa 25 o'clock. In realtà siamo, vai. No, no, stavo pensando, cioè cioè è 25 o'clock. Che no, no, dico cioè, il gran casino dice che no, facciamo. No, dico l'ospite di questa sera. Ah, certo. Cioè come se si è inserito naturalmente sì. nelle vibrazioni nefaste. No, no, certo. L'importante è che tutto sempre, malgrado appunto poi mandiamo delle cose quando ci capita e quando ci piace mandarle cose corrosive, acide, difficili, eccetera. In realtà poi... Perché odiamo progresso e progressive. Ok. Capito, null pointer. Però la prossima volta ti metto il banco. La PFM. Però cioè, non te lo puoi ricomprare così, null pointer. Perché ormai è scatenato... È il maglio di coloro che non esistono. Ah, ok, ok, ok. Fra poco si comincerà a muovere qui la manina sul video. No, no, ma lo faccio per davvero. La prossima settimana, adesso vediamo, fra balletto di bronzo, premiata forma di Marconi e banco il mutuo soccorso. Per ora vi beccate stasera sta roba qua, eh. E adesso mo dobbiamo cercare di scatenare Aiutami te fantasma Massimetto, perché invece ce ne ha di raccontare. Mo abbiamo spinto l'iniziativa, la storia ce la siamo inquadrata, ci piace, vai. C'è rimasto comunque qui in studio un personaggio detto dello spazio 53 da paura. Ricordiamo la sera dei venerdì. Venerdì alle 17 partirà tutto. Quindi proprio pomeriggio. No, venerdì 17. Venerdì sì, 17. Non alle 17. No, alle 17. No, no, vabbè, 17. No, per esempio quando si fa l'Ateneo occupato, la storia con i 200 gruppi, se parte, certo, se parte pure all'ora di pranzo, sì, insomma, perché sono meridiane. Magari aspettiamo che Spazio 53 pure ci sarà una roba del genere. Sì. Tra un mese, a giugno, faremo due giorni. E il sabato faremo un concerto che inizia hip hop di pomeriggio e graffiteremo tutta la via che porta allo spazio 53. Ok. Invece venerdì prossimo Ci saranno 17. Questi quattro gruppi, ci saranno, capito? Due vengono da Cagliari, gli altri sono World Peace e Neil Doom, sono due gruppi di Roma, sono persone stupende, dei bei gruppi sono. Il concerto inizierà alle ore 10. Insomma, venite dopo cena, cenati abbastanza, c'è da bere. Ah, voglia sì, è buona musica e socializzazione. Spogliamo Massimetto dei panni dei panni di quello che si spinge e organizza i concerti negli spazi occupati a Roma e cominciamo a essere marzulliani. Per poter capire, ho capito. ho camminato giorni interi, ho camminato giorni interi per poter capire che non si masturbano gli alberi cercando arcobaleni di risposta ai carceri. No, non si masturbano gli alberi. Che non si masturbano gli alberi cercando arcobaleni di risposta ai carceri. No, non si masturbano gli alberi. Sistematico, a te dovuto e sadico, peso sistematico, da te voluto e sadico, peso sistematico, da te voluto e sadico, peso sistematico, da te voluto e sadico, peso sistematico. Cancella. E stasera Massimetto ci ha portato pure un dischetto, un bel vinile. Di questo gruppo che aveva a caso in mano, i Murder Collins. Chi sono i Murder Collins? Questo è un progetto che, con altri amici così che hanno altri altri gruppi hanno, abbiamo formati già da 3 anni buoni, abbiamo fatto questo disco, cioè l'abbiamo coprodotto con altri distro, con altri label che ci hanno dato una mano, e un bel gruppo grandone da paura. E se ci abbiamo il piatto pronto, io direi di mandare subito dal vinile dei Murder Collins il pezzo, come si chiama? Corpi a perdere. Dai, Allora mi dicono che la cosa migliore è darli in pasto ai maiali. Bisogna affamare i maiali per qualche giorno, ma poi la vista di un cadavere a pezzi gli sembrerà come un ghiacciolo nel deserto. Bisogna rasare la testa della vittima ed estrarre i denti per il bene della digestione dei maialini. Si potrebbe fare anche dopo, ovviamente, ma non è bello rovistare nella merda di maiale, vi pare? Quelli si spazzolano le ossa come fossero burro. Ci vogliono almeno 16 maiali per completare l'opera in una seduta, quindi non vi fidate di chiunque vi dica che ha un allevamento di maiali. Finiscono un cadavere che pesa, diciamo per esempio, 100 kg in non più di circa 8 minuti. Questo vuol dire che un solo maiale può arrivare a consumare 1 chilo di carne umana cruda in un solo minuto. Da qui deriva l'espressione essere avidi come un maiale. E questi erano i Murder Collins. Che scippiamo dal piatto in modo brutale. Li trattiamo male questi Murder Collins. Sì. e con la ventata di grind e crust che ci è venuto a portare il Massimetto. Ci sembra naturale continuare con gli Amebix. Dal capolavoro che è Monolith. Invece adesso ci spostiamo in Norvegia. Aggressor, Apollyon, Blasphemer. Ce li ascoltiamo dal disco del 1996. E questa è l'ottava traccia di Black Thrash Attack. Aura Noir. e loro sono gli Asphyx dall'Olanda. E questa era la quarta traccia dell'ultimo disco, Death Hammer. E ci stavamo raccontando col Massimetto l'impatto sonoro di vedere gli Asphyx dal vivo. Un commento sugli Asphyx dal vivo, com'era il suono? Lentissimi erano all'inizio, il chitarrista aveva un po' dei problemi tecnici così, ma appena si sono messi dopo il primo pezzo c'erano il suono perfetto, rendevano proprio, cioè sono in quattro ma parevano che erano in otto, veramente, cioè sozzi e violenti. Sozzi, sozzi. E visto che il suono è diventato malato, ci andiamo a riascoltare un dischetto che mettevamo tempo fa. Loro sono in Nacht Mistium. Dal disco Assassins Black Metal Part 1. Un disco che inizia così. Ed il prossimo pezzo dei Candlemass, che è Solitude, è il mio saluto a Peter Gross e ad Antonietta. Just life, please let me die in solitude. c'è un po' di confusione. E quindi dopo i Saint Vitus, con Scott Rogers alla voce, ci siamo ascoltati i White Stallions. Invece adesso da capo Orange Goblin. I am the law. Don't you understand? I represent the law. Well, piss on you and piss on your law. We'll be right back. milioni di un orgasmo disperato, terminato sui rifiuti e col fumo siamo noi. Siamo quei pensieri e desideri insoddisfatti che tu cerchi in vano di ingiattire e di dimenticare, ma d'orgoglio non vivi, ti tornano alla mente, incrinano i valori in cui credi da sempre. Gelido sudore di una notte senza sonno, con la roccia di domani sempre uguale siamo noi. Siamo quei momenti di fretta lucidità in cui capisci che sei schiavo e non riesci a sopportare più una vita sprecata, una recita banale, ma il cuore di tuo sforzo non ti riesce a controllare. Istinti di rivolta, affermazione personale, le voci che ti gridano di vivere siamo noi. Siamo il tutto marcio della decadenza urbana che ha trovato il proprio senso in un'altra verità, e non riuscire ad accettarci puoi solare il nostro genere, nuovo fiore reietto contro eternamente. E mezzanotte 5, questa è Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza. E questa è 25 O'Clock. No, niente, devo dire che Banana non mi ha portato il pomodoro. Sangue merda, sangue merda. Banana ci hai deluso. Ricorda che l'orto è la vera ribellione. E questi sono in Nero Orgasmo. Adesso ci andiamo ad ascoltare da Slaughter of the Soul, gli At the Gates. see your body ceremonies to attain the blessing of faith in secrecy. No respect for the weak, the victim of hypocrisy. The philosophy chose to live by and brought you your mortality. A reason to die, no remission of sins committed. But you will fight it to the con i Pestilence ancora in sottofondo. Ci andiamo ad ascoltare adesso gli Obophobic. E allora portami lontano da qui. Questa è la sesta traccia. Vita toward the object form. And then Monday's interlude rays over it, arrival of the seraphic form from Lebanon reels the obelisk scene. Cold numbers upon the current earth side, a man in mourn with the host moon blades takes into the sky. Minuti primi Yom, il pilota automatico. La frequenza è quella di Radio Onda Rossa, rubata, rubato il tempo, rubata l'ora ai ritmi infernali della produzione e del consumo. Far girare le idee nel cervello, mischiarle. Creare e mettere correlazioni. Farsi domande, fare operazioni, trovare risposte. Non fidatevi dell'apparenza e andate a istinto. Seguite i profumi. I sensi allerta, le orecchie dritte. Comportatevi bene, seguite l'istinto. Ospiti a 25 o'clock. Ospiti anche non nel senso fisico del termine. Ci sono perché ci sono quelli fisici. Ma ci sono anche quelli che si insinuano. e ci viene sempre più in mente che quest'ora la rubiamo per delirare. Ai, qui il fantasma ci provoca con gli Om. Ipnotici. Lasciatevi prendere. Seguite l'istinto. Un basso, una batteria. Una voce, un coro. Il tempo si dilata. turned old today. Kenny Wallens and the Himalayans. Chi sono? Better Way. Lo dovevamo, quindi la proposta del banana. Per questa conclusione di 25 o'clock, ci spostiamo quindi verso questi festival tribali. Perché anche questo 25 o'clock accoglienza. E tutto c'ha dignità, tutto c'ha spazio. L'importante è che si faccia con passione ed intelletto. Da qualsiasi luogo e da qualsiasi tempo provenga. La fait dans ce monde là. Elle se nomme RSO. Oh, better boy, better boy. Oh, better Yankee, better boy. Better Yankee, better boy. Oh, sorrow, sorrow, jimmy, jimmy, jimmy, gradissimi. Questo è un canto. Oh, one night, John Gold today. tribale e sgangherato. Better Yankee, better boy. Better Yankee, better boy. Allora, se non li avete visti i video su YouTube, se non li avete visti i video su YouTube di questi giovanotti che vengono da pochi passi dal circolo polare artico, ma che amano profondamente l'Africa e tutto ciò che è nero. Andatevi a cercare. Un'esperienza magnifica. Loro sono i GOAT. E con questo quindi andiamo a concludere. Anche questa altra lunga puntata di 25 o'clock. Ospiti studio dallo spazio 53 a Roma 70. Dove si suonerà venerdì sera. Questo nuovo spazio appunto di qualche mese in quel di Roma Sud. vabbè, noi ce ne andiamo così. La programmazione della radio riprenderà domani mattina, anzi stamattina, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa, la rassegna stampa cittadina e via via. Tutto il palinsesto del giovedì, il giornale radio dell'ora di pranzo, lo spazio comunicazioni. Visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. E via via. Il nostro saluto più importante va al solito a tutte e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, dal carcere, dalla latitanza, dalla clandestinità, dagli arresti domiciliari, dai famigerati CIE. Noi ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata lunga, in quanto mancherà Elettrodo nuovamente per mercoledì prossimo. Ce ne andiamo sotto la luna comunista, bella così. Yeah. dreams. I'll share our dreams under a communist moon.